FM. Svegliamo l'arcano sul test attitudinale di quest'oggi. Vi chiedevamo cosa intendiamo col termine Swinging London. Forse un noto pub londinese? Secondo me no. No, secondo me no. Direi di no. Ipotesi B, forse il movimento culturale dei giovani londinesi degli anni 60? Beh, vediamo, questo potrebbe essere. Ipotesi B, quella giusta. Il fenomeno della Swinging London non riguardò solo l'ambito musicale, ma anche la moda, la fotografia, il cinema. Simboli principali, i Beatles e la minigonna. Ma certo, di Mary Quant, la stilista diventata famosa in tutto il mondo. Era facile, perché di questo movimento, diciamo così, della Swinging London, se ne parlò in tutto il pianeta. Se avevate scelto la C, avevate sbagliato. Aia, infatti non era il nome delle audiocassette prodotte da George Harrison. Risposta fantasiosa, ma improbabile. Tanto il test attitudinale è sempre qua. Dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all talking about, my generation. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. We could get around. Generation, The Who. Benvenuti alla colazione denominata pane, burro e rock and roll, la migliore in circolazione ancora per una ventina di minuti abbondanti. Inizio l'ultimo blocco con segnalazione di servizio da un radioascoltatore tra Segrate e Redecesio, Milano. Camion ribaltato, code e strada chiusa. Che efficata la segnalazione. Grazie Spilung, un abbraccio caloroso a tutti coloro che stanno continuando a scrivere. Abbiamo preso il vizio con la redazione di conservare i vostri messaggi, quindi prima o poi nelle prossime puntate salta fuori il vostro commento. Intanto però un saluto particolare al gruppo d'ascolto Ingegneri, mi si è laureato oggi e si chiede: ma essere ingegnere è un po' rock? Matte, ovvio, l'assunto di pane, burro e rock and roll è che tutto è rock, quindi ovviamente anche gli ingegneri. Stiamo scoprendo anche una marea di desktop del vostro computer, ma ripeto, Tenteremo di fare tutto nella puntata di domani in compagnia di Andre 147, il patentato che ha proposto il sondaggio per i colletti bianchi all'ascolto. Un saluto anche ad Andrea, che ci fa sapere, a proposito di versioni particolari di Led Zeppelin, ci chiede se conosciamo i Dread Zeppelin, che fanno le cover dei Led Zeppelin in versione afro. Sì, ho avuto modo di ascoltare, mi fa piacere girare la segnalazione in ogni caso a chi non lo sapesse. Dread Zeppelin, rintracciateli in rete, qualcosa si trova di sicuro. Vi sentite i pezzi dei Led Zeppelin appunto fatti afro, un po' reggae, un po' in levare. Certo è che se invece volete sentire i Led Zeppelin con il kazoo, quello dovete aspettare ancora una 24 ore, perché nella quarta parte di Pane, Burro e Rock and Roll di domani, cosa abbiamo deciso di fare? Immigrant Song. Sì, io mi alleno tutto il giorno, guarda. Non riesco a pensare a nient'altro. Led Zeppelin con kazoo. La speranza c'è che questo nuovo amore, svelato proprio qualche ora fa nella diretta di Pane, Burro e Rock and Roll, possa servire a far maturare, crescere il nostro piccolo francese. Guardi, io DJ Ariele posso che sperare, augurarmi sperare. Il meglio, questo perché l'amore nuovo tra il piccolo Francesco e la sua nuova compagnuccia me l'ha tolto di casa, sì. E poi perché spero per lui abbia finalmente un'apertura verso il mondo. Dovrebbe essere in linea con noi, pronto francese? Il nostro bambino preferito, pronto? Francese? Ci stai? Ciao. Ma non entri canticchiando come sempre? Non entri canticchiando come sempre? Un po' svagato. Ma chi è? No, siamo pari. Allora, Francesco, ho capito che sei innamorato, ma non è che devi averla. Ciao, ragazzi. Ariele Freak. Ciao. Noi stiamo bene. Tu come ti senti? Ci hai chiamato tu. Ah, l'ho chiamato io? Sì. Sì. Come ti senti? Ma bene, sto qua che adesso sto a scuola. Sì. Ho visto, sto con la compagnuccia mia. Senti, ma non è che questa cosa che adesso sei innamorato fa scemare un po' il tuo interesse per il metal? Metal! Eccolo, no. Meta, sempre meta. Beh, quello è il primo vero grande amore. Anche perché abbiamo scoperto che anche lei, insomma, bazzica. Demonia? Sì. Demonia Blind Guardian. Sì, esatto, esatto. Mi piace tanto. Bazzica la mia. Ieri siamo andati a fare corse con le moto. Come? Ma non hai la patente, Francè? Che me frega, metal! No, è metal, sì, la moto è metal. E quindi? E quindi niente, praticamente gli altri, no? Io guidavo. Sì. No? E siccome non ci arrivano i pedali, così sì, lei stava sui pedali e dava i calci a quell'altri, no, a fianco. Per fargli una, una sintonia perfetta, esatto. Bravi, sì, sì, era una sfida. Tutti, metal, metal, tutti con un capelli lunghi. Ma era una sfida all'ultimo sangue. Sì, sì, sì. E poi praticamente sai dove mi ha portato? Dove? Ma portare al concerto dei Blindfolded Escapology of Jesus Christ. Che è un gruppo che conosce solo lei, tra l'altro. Molto di nicchia, molto allora di culto. Concerto... C'era allora tanta gente? No. No, no. 10 persone, però cattivissimi. Immagino. Tipo che a un certo punto mi sono trovato una testa umana. Come una testa umana? Ma finta! No, vero. Dai. Ma scusa, puoi ripetere il nome della band perché qualcuno ci ha scritto che era interessato? Blindfolded Escapology of Jesus Christ. Sì, va bene. Sono quelli che prima di suonare passano dal primo obitorio della città e si fanno dare qualche avanzo. Sono loro, se non sbaglio, dalle ma cronache. Ma chi è che parla, scusa? È Frick. È Frick. Ciao, ciao. Perdonami, non mi sono presentato, sì, è vero, non mi sono presentato. E vabbè, Francesco. Poi siamo tornati a casa, no? Sì. Ah, che bello. Siamo tornati a casa, c'era un capretto al concerto, tutto pieno di sangue. Sì. Lei mi ha guardato con gli occhioni e mi ha detto, possiamo tenerlo? E io gli ho detto, vabbè. Non hai potuto dire di no. E no, dopo adesso, tanto mamma dorme. Quindi? Io lo tengo in casa. Mamma, l'altro giorno, cioè, si è svegliata, ha visto sto capretto insanguinato e è svenuta. Quindi apposta. Non c'è bisogno neanche dei goccetti. No, e papà? Papà sarà con la segretaria. Papà, le Maldavas. No, le Maldive. Mamas. Le Maldive. Mamas. Maurizio. Con la segretaria. La segretaria. Esatto, perfetto. E vabbè, fortuna che c'è l'amore. Sì, mi sa che devo salutare adesso. Devo andare a mettere, mi ha detto, pegno d'amore, come pegno d'amore. Devi mettere la testa nella lavatrice. La tua testa o quella del concerto? No, no, la mia. Ma no, ma non farlo, Francesco. Ma come no? Beh, no, metal, fa male. Fa male, sì. Trattieniti. Siamo metallari, sì, siamo giovani. Vabbè, fai un po' come cavolo ti piace. No, ripensaci, parlatene, discutete meglio, invitala, parlatene di più tra voi. Parlate di che? E questa cosa di mettere la testa nella lavatrice. E di tante altre cose, di musica. Del vostro rapporto, del futuro, dei blind, qualcosa là. Sì, di mettere su un gruppo insieme. Ma me non mi frega un cazzo, a me interessa solo di lei. Ah, vabbè, innamorato, bello, fa piacere. Arrivo, ciao. Ciao, salutacela. Comunque più calmo. Salutaci demonia. È decisamente più calmo, pacato. Secondo me è matura, questa cosa lo fa maturare. Speriamo, però lei mi lascia un po' così, come dire. Sarà il nome. Sospettoso, sarà il nome, demonia. No. O forse qualcosa d'altro. You can't stop crying. see her, she'll get a little hotter. Every time you see her, she'll get a little hotter. Every time you see her, she'll get a little hotter. Every time you see her, she'll get a little hotter. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah, yeah, yeah, riesci a sentirlo questo suono? È il suono dell'amore. Hai capito che roba? Danko Jones, Sound of Love, la carica, l'energia di Rock FM incanalata nella follia di pane, burro e rock and roll per il vostro risveglio. Affrontiamolo questo giovedì 17 gennaio coi denti. La buona giornata dall'Ariele, da Mister Trombetta. Ci siamo dimenticati di strombazzare per i numeri del lotto, sei un pisquano. Allora, dicevo, ieri qualcuno si è lamentato, ma tanto voi volete bene solo ai vostri inviati, quelli storici. Beh, un po' è vero. Ciao Rosy. Ciao. Cioè, un po' siamo più affezionati agli storici, poi vogliamo, anzi, vi vogliamo bene uguali. Va bene? Un po' alla non ci resta che piangere. Rosy, la nostra amica che ci aiuta nel reparto maschi nudi, alziamo l'ascolto e sbaragliamo la concorrenza. Oggi con carogna, Rosy. Una carogna tremenda. Sentila. Una roba allucinante. Allora, me l'hai già raccontato in fuori onda, dillo anche a loro. Che c'è che ti fa venire la carogna? Ero in coda in tangenziale, fuori frequenza, ecco. E ascoltavo Virgin Radio. No, scusa, cosa ascoltavi? Virgin Radio. Ah, perché eri fuori frequenza? Perché ero fuori frequenza. Meno se no. Togliti un punto subito dalla patente. Ma io la patente non ce l'ho. Appunto, però quelli da accumulare per avercela. Va bene, va bene. E sento, a partire dal 21 gennaio, Rock in Translation. Arrivo in laboratorio, accendo, guardo. Guarda che sei curiosa te però, Ma, che te frega? Ah sì, ma mi girano... Ma scusa, stiamo parlando di un'altra radio, che facciano quello che vogliono. Lasciamo perdere. Cioè, già ti volevo dire, ehi tu che prepari il palinsesto di Virgin Radio. Fatti no, Rosy, diglielo a loro, non devi dirlo a me. No, a meno che... c'è qualche infiltrato, no? No. Magari ci stanno ascoltando loro, ci spiano. Salutiamoli e facciamogli sapere che per uno stipendio riguardevole noi andiamo in network volentieri, tra l'altro. Ah, li descrivo anche di là, io gli uomini nudi, se vuoi. Allora, a partire da questa trasmissione con un duo comico, tale Mammut, che penso di averle intraviste a Zelig, lo so. Beh, noi ci abbiamo Freak. Poi avete noi, quindi. E tradurranno questi brani rock. Cosa? Tradurranno dei brani rock. Non so se in chiave comica, non so se canteranno. Vedremo dal 21. E tu hai cosa, a cosa hai pensato? Perdonami. Ai Led Zeppelin col casuto. Ma quelli sono. O i Beatles in italiano, dici? Sì, ho pensato a una roba del genere. Sai però. Che tra poco arrivano gli ACDC con la bocca? Usti. Ma non farmi dire niente. No. In bocca al lupo ai Mammut e alle loro traduzioni sulla radio network, tra l'altro, concorrente che fa rock. Che non è l'unica, però, diciamo almeno questa, perché ci siamo anche noi. Basta, non mi interessa, proseguiamo con la tua rubrica. Torniamo. Quella non ce l'hanno, o hanno già pubblicato una radioascoltatrice ci farà vedere gli uomini nudi? Non so, probabilmente potrebbero nelle prossime. È un po' troppo avanti questa rubrica, però, Rosy. Non ti offendere, non so se interessa. Dici? Non lo so. Dovrò fermarmi e farmi raggiungere la cosa. Vai con i maschi nudi di quest'oggi! Allora, oggi ho trovato una cosa molto simpatica. Ovvero? Ovvero, i pompieri di tutto il mondo fanno i calendari. Beh. E allora ho cominciato a cercare e ho visto che a seconda della nazione, dell'importanza della città, si rapportano a questo problema in modo differente. Cioè ci sono i pompieri di Bilbao, quelli di New York, quelli di Miami, e sono tutti uguali, fighi, palestratissimi, che quando è che vanno a spegnere gli incendi lo sanno soltanto loro. Ma fanno allenamento. Sì, alla faccia, cioè per avere un critichina fisico. Oggi Rosy, è pure quei pompieri. Ma gli hai mai visto i pompieri italiani? Non lo so. No, non ho mai. Sono normali. Normali, sì. Questi qua sembrano usciti. Giganti. Okay. Una cosa di culturisti. Ecco. Foto tutti belli unti, bisunti. E quindi mi hai scelto? I pompieri francesi. Che sono? Ma sei sempre un po' francofona tu, eh? Dopo quest'estate devo dire ho rivalutato i francesi. Stavano sulle balle da quest'estate me. Quindi vedi, da pane, burro e rock and roll, il gemellaggio Italia-Francia, così, almeno con Rosy e con i pompieri francesi. Descrivicene uno! Allora, il calendario è dei pompieri di Bolène, zona della Provenza. Sì. Il calendario in bianco e nero. Tra l'altro hanno anche delle pompiere. Ottimo. Perché ci sono anche delle donne e sono tutte foto artistiche, sul serio. No. Quella in questione. Sul serio? Cosa? No, nel senso che hanno preso delle pose da sculture. Ah, ecco. E sono pose classiche. Assolutamente non volgari e divertenti nel caso. Bene, scegliamone una in particolare. Il pensatore di Rodin. Senti qua. E la trasmissione vola alta. Di così. Fatto bene, quello con la mano così. Esatto. Okay. Abbiamo, le foto sono fatte in una cava di marmo. Sì. E quindi c'è questo uomo di mezza età, dignitosamente stempiato, con un po' di pancettina che fa le pieghe. Oh, finalmente. Nella classica appunto posizione del pensatore di Rodin. E al suo fianco ha il caschetto di metallo, quello che mettono durante gli incendi per proteggersi dal fuoco. Carino. E guarda con aria sospirante direttamente in camera. Quindi la foto assolutamente non è volgare. Brava Rosy. È carina e logicamente anche loro. E soprattutto del reparto la nicchia vincerà. Certo. Perché è un po' così particolare. Rosy, un bacione, non farti venire la carogna, presto! Ciao! Ciao. Voi restate lì! Tra poco, rock con la bocca! Che c'è solo da noi! It's like Cinderella, doo-dum, doo-dum. Cantarla tutta, faccio tutto il basso. No, se no poi va su Virgin, dai. Maestro Freak, una delle nostre rubriche più gettonate dai radioascoltatori a casa. Ah, che emozione quando mi chiama maestro! Si può diventare musicisti da un giorno all'altro, musicisti sì, ma con la bocca! Che emozione quando mi chiama musicista con la bocca! Lei non lo è, maestro, lei è improvvinante, mentre dovremmo avere in linea un provinato. Provinato? Allora questo è un provino! Esattamente, Brian da Milano, dico bene? Esatto, Brian. Benvenuto a Pane, Burro e Rock and Roll. Viva il 2008, Brian! 2008! Evviva! L'anno della svolta. E Brian ha deciso in questo 2008 di trasformarsi in chitarrista rock con la bocca. Dico bene? Esatto, esatto. Suonerò una air guitar. Sì. E proporrò il brano Air of the Dog di Nazareth. Ah, è preparatissimo. È molto rock. Sembra già pronto, Brian. Sì. È quel gruppo che fa folk mediterraneo, no? Nazareth. Sì. Quella, insomma, sì, quel rocchettino. Roba violenta, Brian. Ah, vabbè. Però sarà, sarà tecnicissimo, no? Ma sei pronto? Sì, sì, sì, io sono prontissimo. Facciamo le domande di rito, però. Brian, quanti anni hai? Io ho 21 anni. Sicuro? Sì. Cosa fai nella vita? Io sono un autotrasportatore. Il vero lavoro, scusa? Il vero lavoro è rocker in cerca di gru. Suoni uno strumento reale oppure no? Non ho capito, scusa. Suoni uno strumento reale, vero? Sì, suono la chitarra elettrica reale. Quindi potrebbe essere aiutato. Complimenti, complimenti. Quindi navighi sul vai sul sicuro, navighi nelle tue acque. Esatto. Giusta, scelta giusta. Io sento che Brian è pronto, quindi sì. Andrei con il provino. Abbiamo detto, Brian da Milano ci suona la chitarra con la bocca su un brano dei Nazareth. Vai, Brian! Ok. Down, down, down, down, down, preciso. Sta a tempo. Monumentale questo sarà un wah wah questo, sì, dai. Brian, abbiamo, sei stato bravissimo, ti dobbiamo interrompere, ma un applauso da tutta la redazione. Senti, c'è stato un inserimento della batteria, no? Quel tracu tracu tracu. Sì, un tracu era un po' un misto perché mi piace talmente tanto che vorrei fare tutti gli strumenti. No, hai fatto bene, bravo, hai fatto bene. La voce. Brian, capiamo, non era niente, il tuo entusiasmo. Il wah wah era l'effetto proprio? Esatto, sì, perché c'è proprio nell'assolo, c'è proprio certo. Wah. Cioè, no, no, invece, avevamo immaginato. Brian, le faremo sapere. Esatto. E se un domani facessimo la famosa band di musicisti, con la bocca naturalmente, di pane, burro e rock and roll, noi la, anzi ti, inviteremo. Va bene, grazie mille Frick, grazie mille Ariel. Grazie mille a te, Brian. Buon pane, buon burro, buon rock and roll, Brian. Pane, burro, rock and roll. Sempre così, carico. Viva il 2008. Well, un ritardo spaventoso, andiamo a chiudere la puntata 163. Si risente domani. Vi affidiamo questo giovedì 17, trattatelo come meglio credete, e torneremo a svegliarvi venerdì. Pane, burro e rock and roll. Ci rinchiudiamo nella nostra barra di ghiaccio. La tua colazione roll. Non ve ne ho mai parlato della barra di ghiaccio di Frick, eh? Pane, burro e rock and roll. Quante robe che non vi raccontiamo, eppure. Tracu tracu. Cerchi una radio che fa roccheggiare. Ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Inutile ringraziarvi singolarmente, quindi saluto con un abbraccio caloroso tutti quelli che hanno scritto. Aiuto, sto parlando, Spadino. Un po' di giorni che sei andato male, eh. Di parte il Windows chiude così. Tutti quelli che hanno scritto al nostro 335-100-7777. Ripeto, ci si risente domani dalle 7 alle 9. Grazie per essere stati con noi.